2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica alle 13.30. Naturalmente gli auguri anche da parte mia a tutti i nostri ascoltatori, anche a quelli che ci ascoltano in streaming e soprattutto quelli che ci ascoltano in podcast, cioè che si sono abbonati gratuitamente a questo servizio straordinario che vi permette di riascoltare tutti i nostri programmi, tutti i programmi di Radio 24 e naturalmente anche 2024, che è uno dei programmi più scaricati di tutta la nostra bella radio. Fatti gli auguri, adesso vi dico di che cosa ci occuperemo questa sera. Commenteremo alcune delle notizie principali di questa settimana, che è naturalmente la settimana che precede il Natale, quindi non ricchissima di notizie, ma ci sono alcune notizie, anzi una molto importante per il settore spaziale, di cui parleremo tra poco. E poi riascolteremo nella seconda parte del nostro programma alcune delle interviste più interessanti andate in onda durante l'anno a 2024. Quindi una puntata mezza nuova, mezza di ricordi, potremmo dire così. Siamo comunque sempre in onda anche la prossima settimana e vi annuncio fin da ora che a partire dalla prima settimana di gennaio seguiremo il CES, cioè il Consumer Electronics Show, che è la più importante fiera al mondo di elettronica di consumo. Sarò là già a partire dal lunedì, in realtà la fiera inizia mercoledì, ma già dal martedì e dal lunedì sera ci sono alcune anteprime, alcuni annunci, alcune conferenze stampa. Tra l'altro la giornata del 5, che è quella che precede la fiera, è una giornata particolarmente intensa. La prima conferenza stampa è alle 7.30 del mattino e l'ultimo appuntamento termina verso le 10 della sera, quindi quel giorno, e poi naturalmente in mezzo ci sono tutta una serie di conferenze stampa e di appuntamenti, non è che durante il giorno si possa andare a fare una passeggiata. Sarà come ogni anno molto interessante, vedremo insieme, ascolteremo insomma insieme quali saranno gli annunci. Dunque, un altro anno se ne va senza che sul fronte banda larga sia successo granché. Tutti i piani del governo procedono lentamente e per vedere qualche cosa di concreto bisognerà attendere la primavera e forse l'estate. In realtà si sta lavorando alla definizione delle aree che saranno oggetto degli interventi, cioè dove gli operatori potranno andare a stendere fibra ottica, a collegare le abitazioni agli uffici grazie ai finanziamenti pubblici, ma i tempi sicuramente non corrispondono a quelli annunciati. Ricorderete che in agosto il Presidente del Consiglio aveva detto che già dall'autunno si sarebbero potute fare le prime gare ed erogare i primi soldi, invece si slitterà sicuramente alla primavera, forse all'estate, speriamo che non si slitti addirittura dopo l'estate. A gennaio dovrebbe essere comunicato il piano all'Unione Europea, che deve poi approvare, essendo finanziamenti pubblici devono avere il benestare di Bruxelles. Allora, questo per quanto riguarda la parte pubblica. Poi c'è tutto il dossier relativo alla definizione degli assetti privati, direi che quasi tutto è rinviato a gennaio, a partire dal perimetro di Open Fiber, che è la società di Enel che poserà fibra ottica. È un progetto sicuramente molto interessante, tutto è di fatto rinviato a gennaio, quindi ne riprenderemo a parlare a gennaio. E poi anche il ruolo di Metroweb è un po' sospeso nell'aria, vedremo che cosa succederà. La notizia più importante della settimana invece riguarda il settore spaziale. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have liftoff of Falcon 9. Questo è il conto alla rovescia di un Falcon 9, un razzo di SpaceX per la seconda volta nella storia, ma forse questo è un appuntamento molto più importante di quello che abbiamo commentato qualche settimana fa. Dicevo, per la seconda volta nella storia un vettore spaziale è decollato e poi è atterrato dopo qualche minuto in verticale, inaugurando quella che viene definita l'era del riutilizzo dei razzi destinati al trasporto di materiale oggi e in futuro, tra qualche anno, anche di persone nello spazio. Dicevamo, un Falcon 9, un razzo di SpaceX, è stato lanciato da Cape Canaveral nella notte fra lunedì e martedì. Il volo era destinato a mettere in orbita 11 satelliti della Orbcomm. Poi parleremo anche di Orbcomm e di quello che fa, è molto interessante. Ma la cosa importante, la notizia della settimana, è che dopo pochi minuti il primo stadio di questo razzo, che è il più potente e costoso, questo primo stadio, poi il secondo ha continuato per mettere in orbita questi satelliti. Allora, il primo stadio si è sganciato e ha cominciato una lenta discesa verso Cape Canaveral, fino nella fase finale ad un morbido atterraggio verticale. È stato aiutato da un paracadute, ma anche da alcuni retrorazzi proprio negli ultimi metri, che lo hanno aiutato ad adagiarsi sulle quattro gambe che ha esteso proprio negli ultimi metri. È riatterrato grosso modo nella stessa, vicino alla rampa di lancio. E questa è l'atmosfera nella sala di controllo di SpaceX durante questo storico momento. I commentatori dicono landing, atterraggio, quindi è stato un momento sicuramente molto sentito. E dicevo, un momento storico, perché è vero che lo scorso mese un'impresa simile era riuscita alla Blue Origin, che è la società finanziata da Jeff Bezos di Amazon, che aveva fatto atterrare in verticale un piccolo razzo, un razzo più piccolo, il New Shepard, ma è la prima volta che accade durante un volo commerciale regolare, perché quello era un test, questo invece era un volo commerciale con tutti i crismi, che ha messo in orbita dei satelliti. Il risultato comunque di entrambe le società è un passo fondamentale per abbassare il costo dei voli spaziali, per allargare il business anche al turismo. Sicuramente allargare il business in generale, ma in modo particolare la Blue Origin vuole portare uomini nello spazio. C'è stato anche un simpatico scambio di battute tra Bezos e Elon Musk, che è il fondatore di SpaceX, perché Bezos gli ha detto: è arrivato per secondo, perché effettivamente SpaceX ha avuto qualche problema, ci aveva provato altre volte, ma i razzi non hanno funzionato a dovere, quindi non sono riatterrati. Il succo è riutilizzare parte dei razzi, perché si riutilizza solo lo stadio principale, poi ci deve essere uno stadio che porta i satelliti in orbita e quello va perso, però gran parte del razzo viene riutilizzato e finora invece questi pezzi vengono dispersi o in atmosfera o cadono nell'oceano, con costi però molto elevati di recupero, anche tempi di recupero molto, molto elevati, perché bisogna portare una nave nell'oceano, recuperare il razzo, riportarlo sulla rampa di lancio, insomma un'operazione molto complicata. Allora, ricordiamo che SpaceX è una società privata creata da Elon Musk, che è stato il fondatore di PayPal, che poi è stato venduto, e fondatore anche della casa automobilistica Tesla, e dimostra anche in questo settore che tutto il mondo della Silicon Valley, della tecnologia, dell'information technology, sta accelerando in settori che da molto tempo non vedevano accelerazioni di questo tipo. Se guardiamo all'automotive, quindi alle automobili, stanno succedendo cose estremamente interessanti ad una velocità molto interessante. E se le case automobilistiche non si danno una mossa, probabilmente tutto il mondo dell'IT potrebbe addirittura superarli, o comunque prendere una fetta importante di quel mercato. Una cosa molto simile sta succedendo nel settore spaziale, dove è arrivata SpaceX, ma non solo SpaceX, altre società private americane, e stanno accelerando i tempi e facendo cose che fino a qualche anno fa sembravano molto complicate, molto difficili. Allora, secondo Elon Musk, il costo dei voli con questo sistema si ridurrà drasticamente della metà o addirittura di un terzo, cioè che dice addirittura di un quarto, ma insomma non esageriamo. Considerate che oggi il costo per portare materiale nello spazio si aggira sui $10,000 al chilogrammo, quindi fate un po' i conti, ci sono i satelliti che pesano anche una tonnellata. Con questa tecnologia, con questa modalità, con questo recupero, sia SpaceX e Blue Origin, fatte le opportune verifiche, si rifà il pieno arrazzo, si rimette il modulo dove stanno sopra i satelliti o comunque qualsiasi materiale che deve essere trasportato, perché la stessa cosa vale anche per i cargo che vanno alla Stazione Spaziale Internazionale, e nel giro di poco tempo, non dico di ore, ma di pochi giorni si può ripartire. Molto molto interessante. Dicevo poco fa che è interessante anche parlare e dire qualche cosa su Orbcomm. Companies with remote and mobile assets moving and working all over the world need a reliable system that informs them of the location and key status changes of their assets where and when they need it. When combined with the ability to control how, when, and why these assets report, companies big and small can maximize operational efficiency, increase their bottom line, and ensure the complete security of their investments around the clock. Orbcomm is uniquely positioned to offer the M2M industry's most comprehensive service, offering to track, monitor, and control powered and unpowered assets in key vertical markets and distribution channels, including transportation and logistics, heavy equipment, oil and gas, maritime, and government. Orbcomm is both a global satellite network operator and a provider of cellular service through our Tier 1 wireless partners worldwide. Allora, che cosa fa questa società? Offre servizi di connettività sia via satellite, ed è questo uno dei motivi per cui sono stati lanciati questi 11 nuovi satelliti, sia per via rete cellulare nel settore, in un settore che sta diventando sempre più importante, che si chiama M2M, machine to machine, da macchina a macchina, cioè collega degli oggetti ad internet in modo che questi possano essere tracciati, monitorati se sono passivi, ma se hanno intelligenze, hanno energia a bordo, possono anche inviare e ricevere informazioni. Si chiama machine to machine, ma negli ultimi tempi la chiamiamo Internet of Things, la Internet degli oggetti. Un esempio, ce ne sono tantissimi, però anche noi un sistema del genere lo abbiamo con tutte le nostre antenne che sono sparse sul territorio, che portano il segnale sia in FM sia in digital radio. Tutte queste antenne sono collegate con sistemi machine to machine, le macchine parlano alla centrale di controllo e ci dicono se sono accese, spente, se hanno dei problemi, se ci sono temperature che non vanno, insomma, e noi possiamo mandare dei comandi. È un esempio molto, se volete, rudimentale di una cosa che può essere estesa e che si sta trasformando in quel complicato mondo che si chiama Internet of Things. Esistono tante società che offrono questo servizio. Lo fanno anche i nostri operatori di telecomunicazioni, che hanno offerte per il settore machine to machine, ma questo è un mercato in forte crescita e nel corso del 2016 arriveranno anche sul mercato italiano società specializzate che offriranno solo connessioni per oggetti. Quindi oggi ci sono gli operatori di telefonia mobile che offrono connessioni per le persone, fondamentalmente si stanno allargando anche al settore degli oggetti, delle cose, della Internet of Things, ma già nel mondo ci sono alcuni operatori che fanno solo ed esclusivamente questo, cioè offrono connettività in mobilità. Questa Orbcomm lo fa anche con i satelliti, ma nel mondo della telefonia mobile, che non dovremmo più chiamare così, ci sono già società che offrono connettività proprio esclusivamente per il settore della Internet of Things. Prima delle nostre digital news, una notizia che però merita qualche secondo in più rispetto alle brevi notizie che vi condensiamo all'interno della rubrica digital news, riguarda il settore automobilistico, perché potrebbe essere la Ford il primo partner industriale di Google, non esclusivo, ma il primo partner industriale nel settore automotive, per costruire e commercializzare un veicolo a guida autonoma, mettendo insieme quindi le competenze costruttive e soprattutto la rete di vendita di assistenza della casa automobilistica americana e quel software del motore di ricerca che da circa 6 anni sta sperimentando con un'apposita divisione, non è ancora una società, ma fa parte del gruppo Alphabet, che è la holding di Google, dicevo, sta sperimentando da 6 anni vari tipi di automobili che guidano appunto da sole. Le indiscrezioni non sono state confermate dalle due società, ma potrebbero sicuramente accelerare di molto i progetti per far uscire sul mercato un'auto capace di guidare da sola. L'annuncio potrebbe essere fatto durante il CES di Las Vegas, che, come dicevo all'inizio della nostra trasmissione, inizierà il 6 gennaio. Lo seguirò di persona e ci sentiremo sia nelle puntate di 2024, ma anche in un appuntamento speciale dedicato al Consumer Electronics Show alle 14 dal 4 di gennaio. Ricordiamo che attualmente fra la California e il Nevada sono una dozzina le società che hanno veicoli automatici in fase di test e l'arrivo del mercato è previsto entro i prossimi 4 anni, almeno questo è l'annuncio che stanno facendo quasi tutte le case automobilistiche impegnate in questi test. Adesso le nostre Digital News, notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Il catalogo dei Beatles, cioè 13 album rimasterizzati e 4 compilation, è ora disponibile sulle principali piattaforme di audio in streaming su internet, cioè Spotify, Deezer, Apple Music, Tidal, Groove, eccetera, eccetera. Poi non tanto eccetera, nel senso che non sono tantissime queste piattaforme. Finora chi gestisce i diritti dei Beatles si era sempre rifiutato di accettare il sistema di remunerazione dei servizi in streaming, ma evidentemente il business di questi servizi sta crescendo tanto che ha consigliato un cambio di strategia. TIM ha reso disponibile per alcuni clienti, per alcuni profili tariffari e su alcuni smartphone abilitati il servizio di chiamata con voce in alta qualità su rete 4G. La tecnologia si chiama VoLTE, Voice Over LTE, e sfrutta la larghezza di banda del 4G per migliorare la qualità della voce. Vodafone aveva già lanciato in estate la propria offerta chiamata 4G Voice. La Federazione Internazionale di Sci ha vietato l'uso dei droni per le riprese delle gare di Coppa del Mondo. Una decisione presa dopo che un drone si è schiantato su una pista a Madonna di Campiglio sfiorando l'austriaco Hirscher. Una ulteriore conferma che è giusto che il settore sia regolato sia sulla parte hardware, che deve rispondere a certi requisiti e quindi non si possono fare queste cose con dei giocattoli, ma anche per quanto riguarda il pilota, che deve avere la capacità per operare in zone critiche come una pista di sci dove ci sono sia gli atleti che il pubblico. Un'ultima notizia riguarda la catena alberghiera Hyatt, alberghi di lusso molto belli. Allora, se siete o sarete clienti di questa catena, controllate il saldo della carta di credito. La società americana ha avvisato i propri clienti perché ha individuato e ora ha già risolto un problema di sicurezza ai propri sistemi di pagamento che sono stati attaccati da un malware. Problemi del genere si commentano quasi ogni settimana, ma nessuna paura, nessun problema con i sistemi di carta di credito. Nel 99,9% dei casi si recupera il denaro che eventualmente è stato truffato, è stato rubato da hacker, come in questo caso. Basta solo controllare il saldo e avvisare puntualmente, tempestivamente, la società di carta di credito. È più facile perdere soldi o che vengano rubati soldi in contanti piuttosto che perderli con i sistemi digitali. Aggiungo due notizie che riguardano il settore fintech. La prima riguarda borsadelcredito.it, che è una piattaforma dove le aziende possono chiedere credito. Ha ottenuto un investimento da 1 milione di euro da P101, che è una delle più importanti società di venture capital in Italia nel settore digitale. Allora, su borsadelcredito.it una società può inoltrare una richiesta di finanziamento online e in circa 24 ore si ottiene una valutazione gratuita. In caso di valutazione positiva, in 3 giorni lavorativi si riceve il prestito richiesto. Nel corso degli ultimi 2 anni ha raccolto richieste di finanziamento di oltre 10.000 PMI italiane e di oltre 500 investitori interessati a questa forma di investimento, perché